100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il nuovo governo dovrà, tra le altre cose, farsi carico dell'attuazione della legge di bilancio per il 2017, approvata in gran fretta nei giorni della crisi dopo il referendum. Per essere tradotta in pratica, per essere applicata, la manovra ha infatti bisogno di una lunga serie di decreti attuativi. Così la legge di bilancio, per dispiegare completamente i suoi effetti, necessita di 79 tra regolamenti e altri provvedimenti di attuazione. Sono molto meno rispetto a quanto accadeva nel passato. Per avere un'idea, lo scorso anno la legge di stabilità prevedeva 144 decreti attuativi, ma ovviamente si tratta di una fase destinata a impegnare parecchio le strutture ministeriale e di Palazzo Chigi, anche perché di questi 79 atti applicativi ben 34 dovranno vedere la luce nei primi 3 mesi del prossimo anno, e in molti casi si tratta di provvedimenti molto importanti. Entro il 1 marzo, per esempio, dovranno arrivare i decreti che renderanno operativo l'APE, l'anticipo pensionistico, sia per la parte sociale sia il prestito vero e proprio, così come entro la stessa data dovranno arrivare i criteri per usufruire del sisma bonus, un gran lavorio che peraltro va ad aggiungersi all'eredità lasciata dal governo Renzi. Si pensi che ci sono 141 vecchi provvedimenti che ancora mancano all'appello per mandare a regime le riforme approvate negli ultimi 3 anni, per tacere poi degli oltre 100 provvedimenti che risalgono addirittura ai governi Monti e Letta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.